Radio 24 Reportage. Volo a vela nel curriculum. La nuova primavera della scuola militare. Di Laura Bettini. Siamo al primo premio, assegnazione premio Città di Firenze. Il premio è assegnato allo studente primo classificato Cosimo Paravano del liceo classico Machiavelli di Firenze. Nell'immenso salone dei 500 di Palazzo Vecchio rimbomba la voce del microfono. Si premiano gli studenti dei licei classici che hanno partecipato a una gara per l'appunto classicissima, il Certamen Classicum Florentinum. Come dice il regolamento, una gara nazionale di versione dal greco al latino e interpretazione critica. E invito a consegnare il premio al presidente della commissione, il professor Mario Labate. La sala è così ampia che per metà resta a disposizione dei turisti. Nell'altra metà siedono invece gli studenti delle classi che hanno partecipato al certamen, che quest'anno ha organizzato la Scuola Militare Aeronautica Giulio II di Firenze. Per questo a far le premiazioni è il colonnello Claudio Icardi, comandante e dirigente scolastico della scuola. E per questo, tra il pubblico variopinto, spicca la macchia uniforme degli allievi della Scuola Militare Aeronautica, rigorosamente in divisa. Due mondi opposti, i militari e la traduzione dal greco? L'allieva Ilaria La Galante. Sembrano distanti, però alla fine non lo sono, perché la scuola che noi frequentiamo è effettivamente divisa nella parte scolastica e militare. Quindi la parte scolastica, io frequento un liceo classico, anzi vengono anche ampliati comunque l'avvicinamento al latino e al greco, quindi comunque la mia abilità nelle materie umanistiche vengono comunque incrementate e ampliate nella scuola. Poi la parte militare comunque non va a influire su questo, fa parte poi di tutto ciò che è fuori dalla scuola. Strana scuola militare questa, che punta su greco e latino a discapito di altre materie. Eppure nella sede della DUE, lo storico complesso dell'ex scuola di guerra aerea, ora istituto di scienze militari aeronautiche, il comandante Icardi conferma. Sì, in particolar modo noi vogliamo rivolgerci a tre pilastri che riteniamo che siano fondamentali di questo percorso scolastico. Il principale è l'internazionalità, quindi promuoviamo molto lo studio delle lingue, abbiamo inserito una seconda lingua straniera quest'anno, la lingua francese, oltre l'inglese, ma vogliamo andare oltre quello che è diciamo lo studio della lingua, ma acquisire delle competenze e quindi in particolar modo dialoghi, colloqui, saper gestire la lingua. Poi l'altro aspetto è la matematica, che è fondamentale per ogni percorso che si vorrà accedere in futuro, e quindi abbiamo potenziato il percorso matematico di matematica anche al classico. E il terzo è il baluardo della nostra cultura e delle nostre civiltà, quindi lo studio del latino e del greco al classico e solo del latino lo scientifico è particolarmente potenziato. Per fare questo chiaramente si va a discapito di magari altre materie più complementari che riteniamo possono essere acquisite successivamente. Nata 7 anni fa, la DUE è una scuola statale aperta anche alle ragazze, cui si accede però per concorso. Vi si frequenta, come in un college, il triennio conclusivo del liceo classico o scientifico. E negli anni sono sempre di più gli studenti che hanno tentato di entrare. 850 le richieste nel 2013 per soli 50 posti. In termini comparativi con le altre scuole militari, è il numero più alto di domande per posti assegnati. Ma perché i ragazzi vengono qui? Vogliono tutti diventare militari? La professoressa Alessandra Corsini. Sicuramente per loro e per le famiglie Firenze è una città molto importante dal punto di vista culturale, proprio per sviluppare certe predisposizioni culturali e artistiche. Perché questi ragazzi, nonostante abbiano scelto una scuola militare, molto spesso hanno interessi creativi molto molto accentuati. Noi abbiamo vinto concorsi creativi, racconti creativi, abbiamo vinto concorsi sulla bontà della Costituzione, che ancora deve essere guardata come un faro. Abbiamo insomma tutta una serie di sollecitazioni che alle famiglie e ai ragazzi interessano molto. Lei mi diceva: che tipo di ragazzo viene qua? E io le rispondo: qua entra la vita. È molto bello avere davanti ragazzi in divisa che però nascondono cuori, interessi completamente diversificati. Per l'allievo Giulia e Leonora, si presentano così, militarmente, al microfono, c'era però anche un pizzico di voglia di libertà. Sicuramente a 16 anni andare via di casa era qualcosa, una grande sfida. Su questo infatti i miei genitori erano abbastanza titubanti all'inizio. Poi sentendomi da casa, sentendomi contenta quando li chiamavo a casa, si sono tranquillizzati. E Ilaria La Galante, che abbiamo conosciuto al Certamen Florentinum, conferma ora nelle sue motivazioni che le piacciono le sfide. Volevo provare qualcosa di più difficile rispetto comunque a una scuola fuori, perché ci sono materie in più qui, ci sono tante esperienze nuove che si possono fare, ma comunque tante difficoltà, tempi di studio ridotti, e quindi era proprio una sfida con me stessa vedere se sarei riuscita a vincere questa sfida. Ma nel conto sicuramente vanno messe anche le difficoltà della scuola pubblica, per così dire ordinaria, la bassa retta, 1200-1500 euro l'anno, il mensile di 110 euro assegnato agli allievi e un'offerta formativa che al di là dei tre pilastri è comunque molto varia: musica, viaggi, sport quotidiano, attività aeronautiche, volo a vela, volo da diporto sportivo, corsi di sopravvivenza e attività di avvicinamento alle istituzioni, e a questo il comandante tiene molto, e tanta, tanta informazione, e questo ci fa molto piacere. Andiamo oltre il concetto di preaccademia, dice il colonnello Icardi. Ritengo che da questa scuola i ragazzi traggono, la cosa che traggono maggiormente è la gestione del tempo. Qui riescono a fare tante cose proprio perché questo inquadramento, diciamo un po' militare, mi passi il termine, tra virgolette, gli insegna a gestire una giornata che inizia alle 6:30 con il radiogiornale e finisce alle 22 con una serie di attività extracurricolari, sportive, didattiche molto intense. Mi fa molto piacere sapere che inizia la giornata con il giornale radio, essendo noi una radio la cosa. Però so che anche la parte di informazione su quello che avviene nel paese e nel mondo è per voi molto importante. Guardi, devo dirle che per noi rappresenta una preoccupazione. Il timore qui dentro, non voglio negarglielo, è di rimanere un po' isolati, e quindi proprio per questo abbiamo studiato come promuovere il più possibile la vicinanza, fare ponte con la società all'esterno. I ragazzi vivono a convitto da noi, vivono 24 ore al giorno con noi, hanno le libere uscite, hanno i permessi, possono tranquillamente godere della bellissima città di Firenze, però sostanzialmente passano molto tempo da noi. Noi facciamo dei progetti proprio mirati, in particolar modo con il giornale, il progetto Il Quotidiano in Classe, che cerchiamo di far leggere in maniera critica ai ragazzi. E stimoliamo in loro la curiosità. Con la curiosità si apprende cultura. E però la sveglia con il GR delle 6:30 o le uscite contingentate comprensibilmente sono un po' faticose per una diciottenne come Diana Di Paolo Antonio. Un po' più di libertà, cioè io personalmente ho vissuto bene qui l'esperienza per 3 anni, però ora che arrivo alla fine, diciamo, sento la mancanza di un po' più di libertà. Gli allievi che incontriamo sono dell'ultimo anno. Che cosa sognano di fare nel futuro? Marco Plebiscito. Il mio sogno è diventare un pilota, e insomma diciamo che la preparazione migliore per l'Accademia Militare dell'Aeronautica la offre, credo, proprio la Scuola Militare 2. Andrea Iacchini. Io per il mio futuro ho già fissato certi obiettivi. Il primo naturalmente è rappresentato dall'accesso all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, però non si sa mai cosa ti aspetta nella vita, quindi ho anche il piano B, sì, rappresentato dalla Facoltà di Ingegneria Biomedica. Eleonora Giulia. Io tornerò a Roma a fare giurisprudenza all'università. Quindi. Diana Di Paolo Antonio. Tornerò nel mondo civile, ho intenzione di fare il test di medicina e di andare a Padova a frequentare l'università la facoltà di medicina e chirurgia. In questa notte fantastica che tutto sembra possibile. Giurisprudenza e medicina per le donne, carriera militare e ingegneria per gli uomini. Da manuale. Divisa o no, sono proprio ragazzi dei nostri giorni. Una nave lanciata a cercare una via,